Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. E siamo in diretta questa sera in questa Resto Radio Convento, in questo sabato dinner dance dagli studi radiofonici del convento di Lonato, e siamo in compagnia di sei speciali ragazze che arrivano da dove? Da dove arrivano? Bolzano! Le abbiamo sentite, arrivano da Bolzano. Sono cariche, non solo cariche di simpatia e di frizzo, ma sono cariche anche di abbigliamento, perché questa sera, per questa serata carnevalesca, abbiamo in studio Marika, che è la regina di cuori. E poi abbiamo Luisa, che è Bianconiglio. Piera, che è il cappellaio magico. Matto, il cappellaio matto. E poi Marianna, che è Alice. Greta, che è la stregatto. E poi Sabri, che è la... La carta. Che carta sei, Sabri? Nasso. Siccome i nostri radioascoltatori non ci vedono, ci sentono ma non ci vedono, dovete un attimo descrivervi. Allora, intanto stiamo festeggiando lei, la nostra Marika, la regina di cuori, perché questa sera è anche un evento importante. Marika, cosa festeggiamo? Festeggiamo i miei 30 anni. Ho messo 30 anni a diventare così bellissima, perfetta. Direi che perfetta avrei qualche dubbio. Sul bellissimo invece no. Sul bellissima devo dire che dai. Hai ragione. Gonfia un po' al mio ego. No. Un pochino, no, per favore. Infatti lo sto gonfiando. Ti dico che sei bellissima, anche se non è vero, è ovvio che... Come? Scusa. È vero o non è vero? È bella o non è bella? È bellissima. Oh, grazie. È bellissima. Cara. Chi sei tu? Luisa Bianconiglio. Luisa Bianconiglio. Ok, Bianconiglio dice che sei bellissima. Wow. E stregatto? È anche perfetta? Certo, è perfetta. Oh. È perfetta, ok. 30 anni Marika per arrivare a raggiungere questa perfezione e questa bellezza così estrema. Ok. Avete scelto questi abbigliamenti, spiegateci perché. Allora, stregatto. Da dove è nata questa idea dell'abbigliamento? Oh mamma. Abbiamo scelto questo tema perché ci piace molto Alice nel Paese delle Meraviglie, e per festeggiare i 30 anni di Marika abbiamo deciso di vestirci in questo modo, di fare ognuno un personaggio di questo cartone animato, nonché film Disney. Certo, bellissimo. Il nostro asso? Cosa dice il nostro asso? Cosa posso dire? Che sono contenta di vestirmi d'asso. Sei contenta di vestirti d'asso? Ho avuto l'unico vestito che... Che poteva rappresentarti, ma ti rappresenta? Questo vestito ti rappresenta? No. Abbiamo una canzone che ci rappresenta. Canzone che vi rappresenta. Possiamo. Guarda cosa facciamo. La musica è sparita. Vogliamo sentire un pezzo a cappella della vostra canzone. Vai, andate. 2, 1. Buon compleanno a te, a me, a te, a me. Buon compleanno a te, a me, a te, a me. Brindiamo tutti insieme con un altro po' di tè. Un buon compleanno a te. Bellissimo. E a questo punto ci sta anche un applauso. E per Marika Leale. E per Marika Leale. E per Marika Leale. E per Marika Leale. Ok. Da Bolzano, arrivano da Bolzano queste ragazze veramente straordinarie. Mi piacerebbe veramente tanto che le potessimo vedere tutte quante. Alice? Sì. Alice, fai sentire la tua voce. Ciao. Sì, con quei pomellini rossi, eh? E con quel vestitino azzurro bianco. Ma che carina che sei. Alice, ti senti rappresentata da questo abbigliamento? Assolutamente no, però nelle meraviglie sì. Vedo che il vostro ego questa sera è particolarmente ha bisogno di essere sostenuto, perché vi manca, eh? Vabbè. Ok, no, d'accordo. Greta Stregatto, sempre tu che sei vicino al microfono. Allora, raccontaci un pregio e un difetto di Marika. Oh mamma. Anzi, della regina di cuori, un pregio ed un difetto. C'era sincera. No, allora, un pregio sicuramente è una persona determinata, è intelligente, legge, quindi è anche abbastanza colta. E un difetto Dai, è un po' paranoica. Sì, è ansiosa, molto ansiosa. Ansiosa vuol dire che si fa prendere per ogni problemino piccolissimo. Lei comincia a fare a delirare, comincia il panico. Diventa tutto eccessivo, tutto grande. Come faremo adesso? Come faremo? Esattamente. Sei d'accordo sui due difetti che Stregato ti ha fatto calzare? Assolutamente. Sì. Chi la conosce bene di voi? Tutte la conoscete, o c'è una in particolare che conosce Marika meglio di altre? No, più o meno tutte uguali. Sì. Allora, Regina, asso. Un attimo. Assolutamente sì. Un pregio ed un difetto di Marika. Un altro. Posso capirti che trovare un pregio dopo che ne ha trovato uno per caso Stregato, trovare il secondo sia difficile, posso capirti. Però di difetti credo che tu ne possa trovare a nastro, possono uscirti così, possono uscirti. Guarda, in questo momento non mi vengono in mente altri pregi e difetti, sono d'accordo con quello che ha detto Stregato. Che tristezza. Non posso cominciare a elencare una serie di difetti perché sarebbero ovviamente tutti inventati. Pregio, la Marika è sempre sincera. È sempre sincera. A parte prima quando si è dichiarata perfetta. Quando si è dichiarata perfetta, forse è troppo sincera. Esatto. È modesta. Allora, è sempre molto sincera. E devo dire che la qualità della sincerità è un bel pregio. Già. È un bel pregio. Avere la sincerità sicuramente un bel pregio. Difetto? Un altro oltre a quello di Stregato, sì. In questo momento non mi viene in mente. Ti è venuto in mente un bel pregio e non un difetto. Mi piace. Beh, Marika, ringraziala. Grazie. Prego, regina di cuori. Greta Stregato e anche chi è? Sabrina. Perché qui mi hanno scritto tutto, e anche Sabrina. Ah. Sabri, la carta. Ok, allora direi che lo stacchettino musicale di prima, il pezzettino a cappella, è stato veramente molto bello. Avete qua anche qualche altra sorpresa così da regalare ai nostri ascoltatori? Hey, my friends, and forever. Questa è un'altra sigla che ogni tanto ci accompagna nelle nostre wannabe. Ok, dopo alla nostra DJ Martin, che sta suonando in console in questo momento, gliela facciamo passare, diremo per le nostre amiche di Bolzano, e daremo la possibilità di ballare anche questo pezzo. Wow, e magari in console di cantarlo. Facciamo una cosa più tardi, siccome avremo la registrazione anche della serata in diretta. Annunciamo che le nostre amiche di Bolzano, la nostra regina di cuori Marika per i suoi 30 anni e tutte le amiche, più tardi le troveremo in console con Wannabe. Sì. Ok, io direi che possiamo... Vai, facciamo un pezzettino a cappella. 1, 2, 3, 4, vai! Ok, lasciamo un po' di suspense, va benissimo, facciamoci un applauso. Ok, grazie ragazze, ci troviamo più tardi. Ciao, è stato un piacere avervi qui in questa serata Dinner and Dance targata Convento. Ciao ragazze. Ciao.